Quest'anno a Natale porta in tavola il gusto e la bontà di Aia. Acquista un prodotto Aia con etichetta del concorso dal 1 al 24 dicembre e partecipa al calendario dell'avvento. Ogni giorno impari 80 premi Philips. Regolamento su aiafood.com. Buone feste da Aia. Benvenuti cari amici e tanti auguri di buone feste da Morgan in questo piccolo speciale retrorassegna stampa videoludica dedicato al Natale. Sfoglieremo qui alcuni numeri di dicembre di vecchie riviste italiane. Partiamo sfogliando il numero 10, dicembre 1983, di Videogiochi della Jackson, che porta in copertina lo strillo speciale ai videogiochi di Natale. In seconda di copertina troviamo la pubblicità dell'annuario 1983 che consisteva in una sorta di recap annuale di tutta la produzione videoludica importata in Italia. Nell'angolo della posta, tre ragazzi della città di La Spezia annunciano la fondazione del loro club per Texas Instrument. A fondo pagina strisce di un fumetto ironico su Pitfall, mentre Eugenio Marziatico di Verano chiede quale home è migliore tra ZX81 e VIC-20. Tra le recensioni troviamo In fila per 4 per Videopack Philips a 55.000 lire. Uno speciale da casa con la soluzione completa al simbolistico Indiana Jones per VCS e uno da arcade con le tecniche per battere il serpentone di Nibbler. Ancora, tra le pubblicità, riconosciamo i rivenditori di lavatrici Seleco e Rex che pubblicizzano la novità di quel Natale, cioè la console CreativeVision, l'home computer che diventa videogioco e viceversa. Mentre la Exelco inserisce tra le strenne natalizie del suo catalogo di vendita per corrispondenza il ColecoVision al prezzo outlet di 485.000 lire con mousetrap in omaggio. Ma il pezzo forte di questo numero è l'articolo, infarcito nella grafica di pacchi dai fiocchi rossi, tutto dedicato alle uscite di Natale ed intitolato Per un Natale videogiocoso. Tra lachi, videopack, moduli di conversione VCS per Coleco, parte la rassegna di tutto l'hardware di nuova uscita, mentre il software occupa ben 4 pagine fitte di titoli e schermate. L'articolo si conclude con lo spassionato consiglio di farsi regalare, per Natale, un agognato abbonamento alla rivista stessa. Questo numero di videogiochi numero 10 si chiude con la pubblicità della ITP di Milano, distributrice dei giochi Apollo, con una cartuccia intitolata X-Men, che non è la traslitterazione di Christmas, ma in realtà un gioco pornografico. Passiamo ora a sfogliare il primo numero di K, Guida al divertimento elettronico, che, guarda caso, inizia le sue pubblicazioni proprio col numero natalizio di dicembre 1988. A pagina 12 un articolo in tema, intitolato Arriva il Natale, che stila una wishlist per Babbo Natale elencando i titoli in uscita e che saranno i best seller di quell'inverno. Afterburner, Total Eclipse, Turbo Cup della scomparsa Lorisiel, F-16 Combat Pilot in versione ST e PC, Weird Dreams per Amiga e l'attesa conversione per Atari ST del simulatore di volo Falcon. Il resto della rivista, con articoli originali a cura dello studio VIT ed altri adattati su licenza della rivista Ace, pullula di articoli interessanti, tra cui una inchiesta a puntate con interviste sulla professione del programmatore, uno speciale sui giochi di ruolo per novizi ed esperti, una guida sul perché considerare il PC valida alternativa videoludica rispetto ai vecchi home computer 8-bit, ancora un articolo di retro gaming sull'origine della specie, recensioni di nuove uscite 8 e 16-bit, angolo della posta e l'immancabile rubrica sulle avventure testuali. Bene, chiudiamo questo numero di K e passiamo ora a Edgy Computer, la corrispondente italiana della statunitense Electronic Games, sulla cui copertina di dicembre 84, completamente gialla, campeggia il cagnolino Snoopy e l'annuncio della nascita del Club MSX Italia, fondato dalla stessa redazione della rivista. L'editoriale esordisce con un doppio augurio, uno ai lettori per il Natale, ed uno alla rivista che celebra un anno dalla sua prima uscita. Nell'angolo della posta, un lettore 14enne chiede informazioni su un ipotetico Commodore Exposed, parlandone come se fosse un nuovo modello di computer. Ma la redazione lo corregge affermando che si tratta solo di un libro. Ancora, spedendo il tagliando a pagina 11 e allegando 5.000 lire, riceverete l'esclusiva maglietta con lo stemma di Edgy Computer. Passiamo alle news, dove viene presentato lo Spectrum Plus come l'ultima rivoluzione nel bacino Spectrum, ovviamente prima dell'uscita dell'annunciato QL. Ma, leggendo bene tra le righe, è facile accorgersi che si tratta solo di un vecchio ZX carrozzato con una diversa tastiera. A pagina 15 si annuncia l'arrivo in Italia del Computer Enterprise, il primo home computer che permette il suono stereofonico e messaggi di errore comprensibili, nonché l'arrivo dello ASCII Hunter, un PC in standard CPM, del peso di 1 kg, definito il più piccolo microcomputer al mondo con uno schermo di 240x64. Inoltre annunciano l'arrivo dell'Oric Atmos, ammettendo, è in arrivo nonostante in Inghilterra non abbia avuto successo. A pagina 25 intervista al creatore di moda, Elio Fiorucci, che placidamente confessa, non posseggo un computer e comunque non avrei tempo per imparare a usarlo. Da mamma Commodore una pubblicità tutta natalizia tra strenne dorate e palline. Si apre su due pagine e mette in rassegna tutti i prodotti della casa e invita all'acquisto con queste parole. Tutto fantastico, scegli qui tra i tanti regali intelligenti il più bel dono di Natale. Per te, per un amico, per i tuoi figli. Per giocare, per studiare o lavorare, per inventare 1000 applicazioni creative e per accendere la tua fantasia, l'entusiasmo e il sorriso di chi sei tu. Queste sono le proposte Commodore, il numero uno dell'informatica. Sul fronte Spectrum, in terza di copertina, troviamo la pubblicità della Rabbit, distributore italiano, della versione 48K, definendolo un vero personal computer ed offrendo in promozione natalizia 8 cassette incluse nel prezzo, 2 libri di programmazione e la super garanzia italiana. Più misteriosa invece è l'inserzione a pagina 60. A tutta pagina è con uno Spectrum che indossa un cappello da Babbo Natale. Dall'ammiccante invito ci vediamo su Rai 1 e Rai 2. Col celato riferimento agli spot pubblicitari che avrebbero invaso l'etere italiano durante le feste natalizie dell'84. Bene, con questo è tutto, buone feste a voi da Morgan e, rimandandovi alle note dell'episodio dove potrete trovare le scansioni delle riviste citate, vi do appuntamento alle puntate canoniche di Archeologia Videoludica. Stamattina che siamo qui. Seguite la melodia. Quale melodia? Siete stonati come una campana. Conosco questa cacciola benissimo. Comincio io. Auguro di buon Natale. Auguri di buon Natale. Che tutto? Auguri di buon Natale. Che non è? Auguri di buon Natale e felice anno nuovo. Bambino. Natale è già qui, che felicità. Che ti porti la gioia e la serenità. Auguri di buon Natale, auguri di buon Natale, auguri di buon Natale e felice ma che succede? Anno nuovo. Andiamo a vedere. Zio Paperino, ma che cosa sta facendo? Allegria, auguri di buon Natale e felice anno nuovo. Scusa, ma papà mio, buon Natale. Buon Natale anche a te, vecchio brontolone. Cantiamo tutti, auguri di buon Natale, auguri di buon Natale. auguri di buon Natale e buon anno a voi. Carissimi amici di IPN e soprattutto di Archeologia Videoludica, benvenuti a questo speciale di Natale di Archeologia Videoludica, appunto, ma che in realtà racchiude tutti quanti i podcast di IPN a livello videoludico e non soltanto. Infatti c'è anche una sorpresina, ma iniziamo da Giuseppe Saso. Buon salve a tutti e buon panettone. Quindi dove si mangia? Cioè, direttamente in trasmissione c'è Marco Gualdi di Surgitori. No. No, secondo, no, si va a mangiare pavettine di Pandoro, guarda, dai, che cavolo, no, insomma, mannaggia. No, buono, però è buono. Dicevamo che c'è una grande c'è una grande sorpresa, perché questo speciale racchiude tutti quanti i podcast videoludici di IPN, ma non soltanto, perché dopo ben 5 stagioni ritorna in Archeologia Videoludica uno che quasi c'era alle origini. Aspetta, ma questa è la settimana dei ritorni. Bravo, dei clamorosi ritorni. Esatto, infatti l'utente che ha detto questa cosa qui non si aspettava che oggi c'è Luca Casciola. Ciao a tutti. Ebbene sì, io ho condotto l'episodio 2. 2, sì, esatto. Due. Mentre che fumavi. Era un episodio interessante. È stata in quell'occasione che hai scoperto la droga, vero? Esatto, io non fumava. No, vabbè, mi ricordo che ero in compagnia di Marco mentre facevo questa cosa. Comunque, ogni tanto mi diceva, guarda, ritorna. Io ritorno. Guarda, vieni. No, però grazie che mi hai invitato. Sei il terzo che mi invita questo mese. Sì, ti sono scatenati tutti. E infatti, che è successo a Roma? Bomba d'acqua! È fantastico, è vero. Vabbè, andiamo. Devo dire che poi c'è San Martino, che pure un sacco è successo, una puntata con me, quindi porto bene. No, assolutamente. Poi San Martino è bravo e se lo merita pure il successo. Allora, dicevamo, i riferimenti sono www.archeologiavideoludica.it. Archeologia Videoludica la trovate su Facebook e su Google Plus, e chiaramente anche su iTunes potete abbonarvi al nostro podcast audio. archeologiavideoludica@gmail.com invece è la mail dove potete scriverci tanti quanti bellissimi, fantastici. Vorrei fare subito complimenti a Giuseppe per il pandoro, che è proprio un po'. Veramente. Infatti io ho preso una fettina piccola perché ho detto, ma adesso devo condurre, poi mi si impasta tutto, però in realtà mi è stata farosicata, diciamo, che stanno mangiando a sganafascia. E, dicevamo, questo era un pandoro bauli, no, pur buono, veramente buono. Bauli è il pandoro. Facciamo pubblicità, non si sa mai, ma dovesse arrivare il signor Bauli e ci dà 5 euro, insomma, non è che ci fanno schifo. No, perché il signor Bauli fa surf di notte, ubriaco. anche lui, va bene. E infatti lui voleva fare podcast, non voleva fare mica pandori. Esatto, in realtà, esatto. Allora, diciamo, questo è un podcast un po' anomalo perché, sa, sarà una cosa molto smart. Noi abbiamo raccolto gli auguri di Natale, i racconti di Natale, tutta quanta, insomma, la parte tecnologica, nerd, geek di IPN, e quindi non poteva giustamente mancare anche Luca, che pare giusto, perché anche lui, insomma, di videogiochi ultimamente abbiamo scoperto, insomma, che ne smanettava. No, non li finisco, ma li smanetto. Li smanetto, esatto. Vabbè, però comunque ce ne hai avute tante da cosa. Ce ne ho avute tutte. Abbiamo condiviso anche due console, una console sicuro. Ma più di una. No, nel senso, una di quelle strane, insomma. Certo. Una l'abbiamo condivisa perché t'ho regalata, quindi, oh, che croce, abbiamo condiviso una tazza. No, vabbè, ma io dicevo di quelle che abbiamo avuto in pochi, diciamo. Ah, voglia. Perché io ce l'ho avuto tutte. Il 3DO. Ce l'ha avuto il CDTV della Comoda, certo, pure quello l'ha avuto. Allora, vedi che abbiamo condiviso varie cose. Insomma, io e te, guarda, ce l'ho avute tutte. Poi se erano flop, ero sicuro che c'avevano. C'era da scegliere fra la PlayStation e il 3DO. Io sceglievo il 3DO. Ci abbiamo avuto, insomma, un bel cammino comune. Allora, io lancerei prima subito i due primi contributi, e stiamo parlando di proprio di archeologia videoludica. Gianluca Santilio, che ci fa il suo, appunto, saluto e racconto di Natale videoludico, e Alberto Semprini con Calavera Caffè, che ovviamente ci fa il suo quest, ovviamente sempre a sfondo natalizio. Cari appassionati di archeologia videoludica, il mio contributo a questa puntata natalizia e forse abbastanza recente rispetto a quelli che sono gli standard della nostra trasmissione. Infatti parlo del Natale del 1994. Io avevo 14 anni e avevo preso circa un anno prima un PC per la prima volta nella mia vita. Avevo un'Amiga solamente in passato e un Commodore 64 e ho scelto di passare alla piattaforma DOS perché si vedeva insomma dalle riviste, dal trend generale che le cose sarebbero cambiate. Non sono stato un commodoriano fedele e quindi presi un 386, era più un capriccio che altro, lo pagai molto poco, era usato, era un schermo monocromatico VGA da 256 kilobyte, 2 megabyte di memoria. L'ho preso nel 1993, era un sistema già un po' attempato per l'epoca, quindi uscirono subito dei videogiochi che non potevo giocare e quindi convinsi i miei genitori, non so in quale maniera, a regalarmi per il Natale del 1994, quindi un anno dopo che presi questo 386, un PC nuovo. Ed era una bomba, una bestia, davvero. Era un Pentium 90 con una XGA, che era una VGA con un po' più particolare praticamente, da 2 mega di memoria video, 8 mega di RAM, 540 megabyte di hard disk scasi e così via. Insomma, potevo giocare veramente a tutto. Non c'era una scheda audio ancora su questo computer, non c'era un lettore CD, però insomma ero felicissimo così, perché sulle riviste uscivano di continuo dei giochi sensazionali. Io vedevo Strike Commander, Comanche e tanti altri che sul mio vecchio 386 non partivano e quindi lo attesi spasmodicamente. Io sono della Basilicata, dalle mie parti non c'era possibilità di acquistare alcun computer, a dire vero, nel mio piccolo paese, e in Basilicata c'erano sempre dei ritardi incredibili, quindi lo ordinai prima da una persona, non arrivò, alla fine lo ordinai a Roma addirittura e accumulò un ritardo di 3-4 mesi questo computer. Alla fine arrivò proprio per le vacanze natalizie ed era una notte buia e tempestosa, ma davvero, perché ricordo che andammo a prenderlo con mio padre da questo ragazzo che me lo portò veramente nella bufera. Poi lo montai a casa e devo dire che il primo impatto non fu dei più eccezionali, perché c'erano alcuni problemi. I giochi in alta risoluzione non mi andavano perché questa XGA non era compatibile con lo standard VESA. Questa è stata una rogna che mi sono portato avanti per parecchio. E non c'era la scheda audio, quindi comunque c'erano dei limiti, ma passai tutta la prima notte a gustarmi SimCity 2000, che girava veramente molto bene ed era un bellissimo videogioco chiaramente. Poi ero felicissimo perché Doom andava ad una fluidità che forse non avevo mai visto in vita mia. Chiaramente era un gioco pensato per i 486, sul Pentium volava. E giocai tanto, ricordo anche a FIFA, che sul mio 386 non partiva perché erano necessari 4 MB di RAM, e quindi ho potuto godermelo solamente sul più grande, più forte Pentium 90. Computer sfortunato, perché poi ho fatto gli acquisti sbagliati quando cambiai la scheda video. Presi una Diamond Edge 3D, che fu la prima scheda 3D accelerata per PC, ed era e fu un flop praticamente, andava malissimo. Spesi un sacco di soldi su quel computer anche per acquistare successivamente la Sound Blaster AUE 32, il mio CD-ROM 4x della Mitsumi, mi pare si chiamasse la marca. Insomma, erano tempi in cui il PC gaming era parecchio più dispendioso di oggi e la mia famiglia è stata veramente molto generosa a sostenere questa mia passione. Ora non so quanto ne siano stati felici visti i risultati poi successivi, ma lasciamo perdere. E niente, questo è tutto per quanto riguarda il mio ricordo. Lascio la parola di nuovo ai ragazzi in studio. A presto e buon Natale. Alberto Semprini per Calavera Caffè, mi è stato richiesto di fare, di raccontare insomma un mio episodio legato alla, al Natale, a un mio Natale o un'avventura grafica, e allora ho scelto di parlare di un'avventura grafica che non c'entra assolutamente niente col Natale, cioè nel senso che non è a tema natalizio, anche perché poi ce ne sono poche, in effetti, a dire il vero, e però parlo di un'avventura che però ricorda un periodo, insomma un periodo natalizio della mia vita passata. L'avventura in questione si chiama Harvest of Souls, è un'avventura della Sierra, pubblicata nel 1997, ed è una sorta di gioco sulla stessa falsa riga di The Seventh Guest della Trilobite, Seventh Guest o The Eleventh Hour, insomma quei giochi praticamente che mischiano un gameplay alla Myst con un'atmosfera però più orientata verso l'horror, e con diversi inserti di attori, insomma di filmati in full motion video con attori, e sì, praticamente un gioco sulla stessa falsa riga di The Seventh Guest. È il seguito di un altro gioco uscito sempre sotto Sierra, che si chiama Shivers, di qualche anno prima. E praticamente il mio ricordo per questo gioco, che è un gioco molto particolare, è legato a appunto un Natale. In realtà di questo gioco io avevo già letto anni prima, quando uscì appunto nel 97, una bellissima recensione su una rivista, e ero molto incuriosito da questo gioco che era molto particolare, la storia mi aveva molto preso, quella che veniva raccontata appunto nella recensione. Allora avevo il pallino di recuperare questo gioco, all'epoca non c'era internet, quindi bisognava trovarli, insomma, fisicamente, e per caso, il dicembre, mi sembra, del 1999, se non ricordo male, trovai questo gioco appunto in un negozio specializzato di videogames nella mia città. Trovai questo gioco e senza pensarci due volte lo comprai, praticamente me lo regalai da solo per Natale, in un certo senso, non lo incartai neanche, insomma, me lo presi e lo portai a casa. Oltretutto il negoziante si sbagliò e mi diede, invece di Harvest of Souls, mi diede proprio Shivers, cioè il prequel, quello, il gioco prima. E quando me ne accorsi che tornai a casa, dal sacchetto tirai fuori Shivers, lo maledì e tornai indietro a piedi a farmi cambiare il gioco. E niente, mi ricordo con molto affetto il fatto che appunto giocai a questo videogame, a questa avventura grafica, durante il dicembre, insomma in questo Natale qui. Ed è un gioco molto particolare, perché un gioco a cui sono molto legato, perché è davvero molto, come posso dire, al contrario poi di anche appunto di The Seventh Guest, che è un gioco che è giocato oggi è molto, come posso dire, molto ridicolo. Harvest of Souls giocato oggi è ancora abbastanza interessante, perché comunque è un gioco molto curato e gli inserti in full motion video sono pochi, quindi c'è poco ridicolo in un certo senso. Ed è molto, molto carino, perché praticamente ha un'ambientazione molto, molto curata, soprattutto nella grafica, che ovviamente è una grafica pre-renderizzata che oggi è un po' obsoleta, ma comunque ancora all'epoca comunque era ancora molto, molto, molto attuale, molto d'impatto, e soprattutto ha il pregio di avere una colonna sonora molto, molto bella, molto curata, che riesce a creare veramente un'atmosfera angosciante e paurosa, nonostante, cioè, insomma, nonostante durante il gioco non succeda praticamente nulla, nel senso che non si rischia, cioè, oddio, si rischia anche di morire, ma non ci sono attacchi, insomma non è un gioco tipo, non è un Alien vs Predator dove a un certo punto ci sono dei mostri che ti attaccano e ti devi difendere, è semplicemente un'avventura grafica dove praticamente non succede praticamente nulla di pericoloso per tutta l'avventura. Malgrado questo, è un gioco che riesce a ricreare un'atmosfera angosciante proprio grazie all'ambientazione e alla musica. Musica che oltretutto è curata da un gruppo musicale che si chiamano i Trip Cyclone, almeno erano il gruppo che poi appariva anche nel gioco. E oltretutto questo gruppo musicale aveva, durante il gioco c'erano anche dei videoclip di queste canzoni, che nel testo nascondevano appunto degli indizi per finire il gioco, per risolvere qualche enigma. Mi ricordo che Harvest of Souls era un'avventura veramente molto difficile, a parte che era completamente in inglese e quasi intraducibile in italiano, perché a un certo punto c'era un sistema di cifratura di un sistema di cifratura del testo, cioè dei testi praticamente crittografati, bisognava capire cosa c'era scritto, e quindi era un sistema molto difficile da tradurre in italiano, perché ovviamente era pensato appunto per la lingua inglese, e quindi non è mai stato tradotto. Io non sono giocato tutto in inglese, capendoci un po' sì un po' no, anche perché all'epoca non ero così bravo. E oltretutto non riuscii neanche a finirlo in quel Natale lì, perché mi bloccai, mi ricordo bene che mi bloccai. Riuscii a finirlo solo qualche anno dopo, dove avendo accesso a internet con un modem 56k riuscii a trovare una soluzione e scaricarmela, quindi scaricarmela e stamparmela, quindi ce l'ho ancora qui da qualche parte, la soluzione stampata appunto di qualche centinaio di pagine, perché era un gioco veramente molto... Si tratta di un gioco veramente molto complesso, perché è fatto praticamente c'è la storia praticamente è quella di questo protagonista che arriva in questa cittadina americana alle porte di un canyon per incontrare appunto dei suoi amici che hanno un gruppo musicale e stavano lì per incidere, e praticamente in questa cittadina tutti gli abitanti di questa cittadina sono scomparsi, quindi ci si aggira per queste abitazioni completamente tutte grottesche con questa musica molto inquietante, e dentro ogni edificio, ogni abitazione c'è praticamente un enigma di stampo logico matematico, quindi cose molto così, come posso dire, molto alla Myst, molto alla, appunto come dicevo, alla Send and Guest, quindi un gioco molto come andava all'epoca, poi all'epoca andava molto di moda questo tipo di gioco, questo tipo di gameplay, e mi ricordo che era molto difficile, quindi non riuscii a finirlo, ero bloccato, come vi ho detto, ho finito anni dopo. E la cosa che ricordo comunque con molto affetto anche è che mio padre, che insomma io all'epoca insomma stavo lì con loro, mio padre si appassionò anche lui a questo gioco, e quindi iniziamo a giocarlo assieme in un certo senso, perché c'erano appunto questi enigmi logico-matematici che lui apprezzava molto, e quindi iniziamo a giocarlo anche assieme, malgrado non riuscimmo a finirlo, proprio appunto anche per colpa di questo sistema crittografico che non riuscivo a capire. E no, niente, questo è il mio episodio legato al Natale, un'avventura natalizia, l'unica avventura natalizia di quale ho memoria, insomma, che mi rievoca appunto questa atmosfera, proprio anche perché poi dopo giocando così assieme in famiglia, insomma, è diventato comunque un gioco aggregativo anche da questo punto di vista, e quindi questo era il mio ricordo per quanto riguarda le avventure grafiche e il Natale. Vi saluto e vi faccio gli auguri per questo Natale 2014. Eccoci, bentornati, grazie quindi a Gianluca e grazie a Alberto per questi racconti che ci stanno facendo entrare in clima. Io sono veramente commosso dal racconto, c'era veramente molta tristezza. Non c'era da muoversi, erano racconti di speranza. Non c'era speranza, c'era allegria, molta allegria. Andiamo subito all'ospite. Luca, insomma, il videogioco è il Natale, che so, sei anche tu. A voglia. Perché a me però giochi mentre mangi il pandoro, me ne tagliate una fetta pure a me, assolutamente. Guarda, la cosa fondamentale della mia vita è che è stato un Natale che ero proprio piccolo, mi hanno regalato l'Intellivision, che è stata la mia prima console. Cazzo, allora io lo invidiavo tanto Intellivision, con in bundle Frogger, ok, che insomma era un gioco di merda, no? Però ti ci chiudevi ore classico, ore con la rana che attraversava la strada, no? E poi comprai il calcio. Poi mi ricordo, aspettai proprio Babbo Natale, perché calcio, come tutti ben sanno, quelli che mi conoscono, purtroppo io non ho avuto il privilegio di poter credere a Babbo Natale. Ah, è vero, racconta anche questa cosa, insomma. Perché c'ho un fratello scienziato che all'età di 5 anni mi ha detto: Babbo Natale è semplicemente un testimonial della Coca-Cola degli anni 40. Io quando sono andato a scuola l'ho detto ai miei colleghi, testimonial invece no. I miei compagni hanno chiamato mia mamma e mio papà per dire se c'avevo qualche problema psichico. Sono arrivati gli assistenti sociali direttamente. Quindi poi gli anni dopo ci hanno riprovato a spacciarmi. La cosa bella è che per colpa di tuo fratello i tuoi genitori sono stati richiamati. Questa cosa, esatto, è fantastico. Beh. E mi hanno regalato sti in televisione e là ho detto: vabbè, ci credo, Babbo Natale, sti caccio. Sono disposto a credere a qualsiasi cosa. E devo dire che il televisione era contemporaneo all'Atari in Italia, più o meno, diciamo. Io, sì, io volevo l'Atari e mi hanno regalato l'Intellivision. Questo vorrei, che è una cosa che è successa sempre. Io volevo il Commodore 64 e mi hanno regalato il Commodore 16. Forse lo so, Giuseppe, ma tu lo ricordi meglio. Forse l'Atari aveva più giochi della Intellivision. Direi proprio di sì. Però l'Intellivision era l'Intellivision, cioè, era una macchina. Quando l'ho aperto, sai che era una macchina che quasi quasi era 16 bit. Ma pensa che c'aveva i controller che erano fatti tipo... Quelli erano terribili, cioè quelli erano terribili. No, la cosa drammatica, che poi molti si ricordano, è che ci potevi mettere le schedine sopra i tasti per far vedere, insomma, quali tasti dovevi premere. E quindi quello però me lo ricordo proprio, sto Natale con sto, sto in television subito a giocare proprio. E ti è piaciuto tanto, non so se ti sei emozionato. Qual è invece il regalo di Natale sempre videoludico che avresti proprio sognato? Proprio? Ma il pensavo... Commodore 64. E? Il Commodore 64. E? È arrivato poi? No. E puntini puntini. È arrivato il Commodore 16. Che non è uguale. Ah, pure a te se stessa cosa. Pure a te, non è la Giuseppe Scaletta la stessa cosa. Lui sognava il 64 e gli hanno fatto. Ma il Commodore 16, non so perché poi, perché poi era una macchina che costava di meno, però era più potente. Perché il Commodore 16, ricordiamo, era il computer di transizione tra il Commodore VIC 20 e il Commodore 64. No. Sì. No. Sì. No. E te dico di sì. Te dico di no. Tecnologicamente sì. Storicamente è uscito il VIC 20, il 64 e il 16. In Italia. No, pure fuori. Poi ne parleremo. Solo il panettone riesce a far star zitto i pizzi, ma solo per un po'. E altro? Invece altri bei. Per regali videoludici. Beh, poi insomma, da grande mi hanno regalato una volta. Poi la, facevi da soli, la PlayStation. No, no, beh, però insomma, nella mia età sicuramente è il Vectrex, vedi? Pure il Vectrex è un regalo di Natale. Che ricordo c'hai del Vectrex? Ti piaceva? Il Vectrex mi ricordo questa cosa: che ce l'aveva un mio amico a Cerveteri e ci giocavano. Tutto quanto, a un certo tempo facevano, io pure io, ma dove l'hai comprato? E questo mi risponde, al gioco e studio alla Dispoli. E questo per me fu come una coltellata, come se nella mia capoccia lo prendevano solo là. E i miei non sarebbero mai arrivati fino alla Dispoli per comprare il Vectrex. Cioè, mannaggia, invece poi me lo regalavano, era una ficata. Che se mia madre non l'avesse buttato, penso che avrebbe un sacco di soldi, così come il mio con Sigma. Se era intonso, sì, sì, diciamo che è un oggetto da collezione, anche perché i Vectrex hanno questo problema... che se particolarmente usati o maltrattati in realtà si danneggiano anche, e quindi funzionanti non è ce ne siano poi tantissimi, insomma, quindi che c'è Stefano Paganini però in compenso, quindi se un giorno vuoi andare a commuoverti andiamo a casa dei Paganini e ci commuoviamo, ci commuoviamo, però non so se ci arriviamo vivi. Ma dove sì, è la città del crimine a Milano, no, no, perché poi ogni semaforo sappiamo e lo ricordiamo sempre, bisogna chiudere le portiere assolutamente. Va bene, allora andiamo con i due secondi inserti e abbiamo chiaramente il nostro compagno di viaggio Roberto Bertoni e Antonino Nicita, che anche lui ci ha fatto omaggio, ovviamente. Che carino, uno mi ascolta anche a me. Sì, sì, perché fa parte del team di IPN, lo sai. IPN ha più collaboratori che ascoltatori. Io so solo che ogni volta che qualcuno scrive a me, io dico a Pizzi, ma ha scritto questo, dopo fa podcast. Magari con IPN. No, fa podcast su IPN. Mi ricordo Mario D'Amore, ma ha scritto questo, ma fa podcast su IPN. Ma sentiamo questi contributi allora. Buongiorno a tutti amici archeologia videoludica, è un piacere essere qua con voi e soprattutto è un piacere essere qui in un'occasione particolare, ovvero in vista del prossimo Natale. È stato inizio dell'anno un po' travagliato, di quelli che magari non ti aspetti, di quelli che magari non immagini, però diciamo che la voglia di stare con voi, la voglia di raccontare un po' la storia del videogioco è sempre ben presente. Ed è per questo che sono contento di poter tornare con la memoria a un Natale passato, un Natale che probabilmente si legherà a doppio filo con quella che sarà la prossima storia, o meglio il prossimo futuro di archeologia videoludica. Tutto infatti riporta un Natale del, adesso non saprei dire esattamente l'anno, ma ricordo avere 13-14 anni al massimo. È stato l'anno del mio primo contatto col mondo Amiga, un mondo che praticamente prima non conoscevo, tant'è vero che mi aspettavo un computer, una console, un qualcosa di particolare per quel Natale. Quando vidi davanti a me questo Amiga 500 rimasi verosimilmente un po' male all'inizio, non capivo bene cosa mi fosse stato regalato. Questo però durò lo spazio di qualche secondo, o meglio, lo spazio di qualche dischetto, quando mio padre iniziò a girare i giochi uno dopo l'altro per farmi vedere l'immensa per me quei tempi, chiaramente parliamo di una decina di giochi scarsi, dicevo, l'immensa ludoteca che era mia stata messa a disposizione. E ricordo ancora il primo titolo che entrò in quell'Amiga 500, fu Robocop. E ricordo ancora che chiese a mio padre appunto di poterci giocare ancora, ancora, ancora, nonostante appunto lui volesse farmi vedere tutti gli altri giochi. E io un po' indispettito dissi no, ma io voglio provare questo, voglio giocare a questo. E per qualche motivo particolare fu anche il primo gioco che finì proprio su questa console, su questa macchina, su questo computer, chiamatelo come volete, per me semplicemente è sempre e rimarrà sempre Amiga, una macchina dei sogni, una macchina fantastica. Comunque, tornando a quel Natale, diciamo che la magia di quel giorno, la magia di poter vedere qualcosa di inaspettato che si palesava entro i miei occhi, è qualcosa che probabilmente non mi è stato mai più possibile riprovare. È stato un unicum, è stato un momento veramente particolare che mi ha segnato sia dal punto di vista personale, delineandomi quella che sarebbe stata la mia passione tutti gli anni futuri, ed è che ancora oggi quella del videogioco, sia avvicinandomi a un mondo, quello dell'Amiga, un mondo che veramente probabilmente dai più o meno, da chi non lo conosce, è stato veramente sottovalutato, perché è stata un'esperienza unica nella storia dei videogiochi, è stata un'esperienza unica per tutti coloro che hanno potuto avvicinarsi. Certo, poi arrivò anche l'Amiga 2000, però diciamo che l'affetto che mi ha accompagnato con l'Amiga 500 è stato qualcosa di veramente unico, una sorta di reliquia che il distacco non ha potuto in nessun modo scalfire. E cosa raccontare ancora di quel Natale? Beh, sicuramente, come ho appena detto, gli altri giochi che si alternavano davanti ai miei occhi su questo televisore, Chase HQ, Jack McCracken, tutti piccole perle, piccoli passaggi che comunque hanno saputo raccontare qualcosa, farsi capire e farsi vedere. La cosa particolare poi di quegli anni è che, come molti di voi immagino ben sappiate, era molto difficile trovare giochi originali. Infatti, fra tutti i giochi che mio padre mise a disposizione, ce n'era solamente uno che si poteva affreggiare di un'etichetta stampata. Gli altri erano tutte etichette a pennarello, quelle etichette che in qualche modo racchiudono loro stesse un qualcosa di romantico che richiama il Natale. Non so dirvi perché, però vedere appunto segnati a mano quei nomi particolari sconosciuti, senza libretti, senza manuali, e solamente dal titolo cercare di immaginare quello che sarebbe potuto apparire davanti ai miei occhi sullo schermo, questo è sempre stato qualcosa di magico. E per questo non posso che ringraziare mio papà per avermi permesso comunque di entrare in questo modo, in questo mondo, e poter guardare a testa alta anche i miei amici, i miei compagni che dicevano: io ho Sega Mega Drive, io ho NES, io ho l'Amiga. Ragazzi, veramente siete tutti un passo indietro. Chiudo dicendo che, sebbene adesso posso anche confessarne una sorta di autoinvito ludico, in qualche modo, in qualche occasione, sentissi un po' di complessa inferiorità solamente di fronte al PC, devo dire che il percorso iniziato in quel Natale ha reso veramente questa festa unica. E se adesso dovessi ripensare a uno dei tanti Natali che ho passato, questo è probabilmente l'unico di cui ricordo ogni istante il momento. Per assurdo, giusto per farmi un esempio, scusate, sto divagando, ma ci tengo ad andare un po' a ruota libera per esprimermi quanto più possibile l'amore che ho per questa festa, o meglio, l'amore che quella festa in quell'occasione ha saputo generare. Dicevo, ricordo con esatta precisione anche il tavolino su cui poggiò l'Amiga, la posizione che aveva, il joystick, il mouse, la tastiera, insomma tutto quello. Chiaramente per l'Amiga 500, ragazzi, stiamo parlando di una tastiera integrata, non che qualcuno poi mi taccia di incompetenza o gridi all'eresia. Ecco, dicevo che tutti quegli elementi hanno saputo contribuire a creare veramente un mito. Un mito per me, un mito per molte generazioni a venire. E sono sicuro che molti di voi ricorderanno un Natale in cui l'Amiga è entrata nella loro casa. Quindi penso che questo possa accomunarci tutti insieme. Detto questo, sperando che questo mio ricordo non vi abbia annoiato, o comunque vi abbia accompagnato con la memoria a ricordare anche qualche vostro Natale, ci tengo a salutarvi, ad augurarmi appunto delle buone feste, delle feste tranquille, delle feste che vi permettono di esprimere al meglio delle vostre possibilità quella che è la vostra passione per i videogiochi. Non dire che l'Archeologia Videoludica ci stiamo provando, ci proveremo, e nonostante qualche caduta di stile, qualche magari settimana in più per aspettare un nuovo episodio, vi assicuriamo che il lavoro, la passione che ci muove sono sempre gli stessi, e questo nonostante i mille e più impegni della vita quotidiana. Come ben sapete, io ho avuto la fortuna di avere il mio secondo figlio, però sono ancora qua con voi, cerco di tenere botta. Certo, magari in questo periodo mi sentite un po' meno, e magari per qualcuno può essere anche fonte di gioia e giubilo, però veramente non vogliamo mollare, e voi non mollateci, perché possiamo veramente fare delle cose grandissime insieme. Detto questo, a mio nome, a nome di tutta la cricca di Archeologia Videoludica, e a nome di tutti gli amanti dell'Amiga, di cui mi sento onorevolmente parte e partecipe, apro parentesi con la promessa che presto ne parleremo, o almeno inizieremo a parlarne, perché non basterà sicuramente la puntata per esplorare il fenomeno Amiga. vi auguro ancora le buone feste e arrivederci a presto. Ciao a tutti amici. Ciao a tutti gli amici di Dietrologia Videoludica. Qualche ricordo in merito al Natale videoludico. Intanto le vacanze scolastiche per il periodo di Natale, che permettevano di giocare, diciamo, tutta la mattinata fino, diciamo, anche fino a pranzo, e di solito monopolizzavo il televisore con le annesse lamentele e urla da parte di mia madre, che magari voleva vedere il telegiornale mentre io invece volevo giocare. E poi la sera invece spesso giocavamo insieme, quindi il videogioco come centro di coesione familiare, se proprio vogliamo dirla così. E mi ricordo che con mia madre soprattutto giocavo a Tank, mentre mio padre prediligeva i giochi di corse o quelli in cui si doveva sparare con la pistola, quella semi-zapper. Poi, sempre nel periodo natalizio, si andava ovviamente a fare visite a parenti e amici, ed era di rito la classica visita in cameretta dell'amico, del cugino, per provare il gioco o la console nuova. E poi usciva sempre la partitona di calcio, anche se non ho mai avuto né la passione per il calcio, tantomeno per i videogiochi di calcio, però era divertente lo stesso. Ecco, questo è un po' quello che ricordo del Natale in chiave videoludica. È molto classico come cosa, niente di eccezionale effettivamente. Un saluto a tutti ed un augurio di buone feste da parte di Nino. Eccoci. Così che funziona, lo sai, no? Eccoci, allora, dicevamo Giuseppe invece. Giuseppe, il ricordino di Giuseppe. Io in realtà ne ho due. Due, attenzione. Il primissimo. Aspetta, tu hai detto che uno però è triste. Eh sì. Allora, prima quello allegro. No, perché? Esatto, proprio quello ti spiego. Allora, quello allegro è stato quando ho avuto il mio primissimo computer, perché io prima ero sempre abituato a giocare con quelli di mio padre, in particolare col suo Commodore 64 Executive. E io, che vuol dire Executive? Quello portatile di ricordi nero con quello ce l'aveva, esatto. Un mio amico della strada, esatto. Che era enorme quel, sì, coso, e costava un sacco di soldi. Però io avevo fatto per tutto un anno, che ricordo allora che andavo all'elementaria, la testa così, perché volevo un mio computer nella mia stanza. E allora lui poi mi promise un giorno: sì, vabbè, guarda, andiamo assieme e te lo compro. E invece mi fece la sorpresa che quando un giorno, poco prima di Natale, quando mi risvegliai dalla pennica pomeridiana, probabilmente dopo pranzo, mi aveva fatto trovare questo enorme scatolone con l'Amiga 5, il Commodore Amiga 500 di 900.000 lire dei tempi sulla scrivania. E per me fu veramente, e valeva più della scrivania stessa, esatto, tanto di arredo. No, me lo ricordo pure, 800-900 mila lire, me lo ricordo ancora. Tutti i nostri ascoltatori stanno pensando una cosa sola. Qual è il ricordo triste? No, voglio il padre di Sasso come mio padre in quel periodo, sì, che così mi regala le cose. Ma guarda, da una parte anche mio padre era un po' così. Io, tant'è che c'era un amico mio che diceva sempre: oh, quando andavamo a comprare i computer, diceva: papà, andiamo a comprare questo, papà, ti prego, andiamo a comprare questo. Vabbè, andiamo a comprare questo. Andavo con questo amico mio, che era quello che abitava sotto di me, e che camminavamo veloci, e mio padre andava un po' più piano, stava dietro, lui faceva: guarda che te stai a perdere il portafoglio. Che cosa ci dice? Il portafoglio era il padre, esatto. Ah, stai a perdere il portafoglio. Invece mi ricordo che i miei, io gli chiedevo le cose e mi compravo sempre la stessa cosa, ma di sottomarca. Era devastante. No. Vedevo il Transformer e mi compravano quello là, sai, quelli di bancarelle. Transformano, capito? Trasformati. Sì. Neanche il Gobot. Volevo i saccottini e mi compravano i ripienini. I girelle, sono quadrate. Vado no. Invece con quello triste. Ecco, vai. Allora, è anche una cosa bella inerente all'occhio del Beholder. io ovviamente lo solito sempre ho messo musica triste col violino, farmi regalare appunto videogiochi pure per Natale, perché così era una delle buone occasioni. Ed è uscito quell'anno per PlayStation 2 e per PlayStation 1 Final Fantasy 8, ve lo ricordate? Uscì verso fine anno. Io veramente stavo in fissa, perché dopo aver giocato il 7 ancora non sapevo che l'8 a posteriori per me era una merda, perché a me non è mai piaciuto. Beh, una merda, non so già. È meno bello. Fatto sta che riuscì a farmelo regalare. Ci giocai veramente tanto. Verso la fine del primo disco, quando è che va, poco prima della fine del primo disco, quando è che devi fare l'assalto al treno, che conosci Rinoa se ti ricordi, comincia a scattare, perché caricava dei full motion video e cominciava a scattare la PlayStation. Lo cioè, provai, cioè si muoveva la PlayStation, vedi che il full motion video andava a scattare. Full motion video, sì. Okay, perfetto. Ma sulle prime pensai che fossero un errore così momentaneo, allora ricaricavo, anche perché comunque per arrivare a quel punto dovevi vincere una serie di scontri, quindi non era tipo immediato che c'era il salvataggio e la schermata successiva. Fatto sta che non c'era verso, e a questo punto lo imputai alla mia console, e allora, siccome non potevo più giocare, decisi di rinunciarci. Fatto sta che il mio migliore amico quell'anno si era pure avvicinato alla PlayStation e ai giochi di ruolo, e quindi, siccome lui veniva da una famiglia un poco più disagiata di tre fratelli eccetera, pur di non tornare io per ricambiarlo e farmi dare magari altri soldi, un buon indietro, altri videogiochi eccetera, l'ho regalato a lui. Sempre generoso Peppe, che ci ha fatto i regali a tutti. Poi comincia a rosicare quando seppi anche che a lui invece a quel punto lo superava senza problemi. Era benissimo, esatto. Si sentiva così, esatto. Che per gli ascoltatori è il gesto dell'ombrello fatto da lontano dietro la finestra, chiaramente. Che la prima volta è uscito il gesto dell'ombrello, che era Spielberg, qualcuno di questi. Non lo so. In multimania sì, quello si sente. Pensa a lui comunque. Non so se questa esperienza in realtà abbia poi influito anche sul farmi odiare. Anche sul fatto che quel bambino poi è morto. No, è tuttora il mio migliore amico, ci teniamo in contatto. Sai che ciao devi Giovanni. Dire, sai che devi dire a quel bambino? Bambino, ma non c'è niente qui per te. Ma un giorno la racconteremo questa cosa. Sì, per forza, non so dove. Queste trasmissioni ormai cross mediatiche che sono un po' di qua, un po' di là. Vabbè, basta, qui. Basta, qui. Anche perché è veramente triste. Ragazzi, ho cercato violino triste. C'è la morte. Violino triste. Vabbè. Vabbè, comunque, Giuseppe, insomma, questo è il tuo regalo. Invece una cosa. Aspetta, che... Aspetta, vuoi dirci altro, Giuseppe? No, basta. E adesso la lasciamo andare a prescindere, perché... Vabbè, ma cioè, una cosa che, per esempio, anche senza averla chiesta... Che ne so, hai sempre sognato e che un giorno ti sei trovato sotto l'albero, così proprio, e che quello ti ha folgorato proprio al di là dell'amica, chiaramente, che hai appena raccontato. Non ce la faccio. Ma va bene, era un momento simpatico. Era bellissimo, insomma. Vabbè, andiamo. Anzi, con la trasmissione e ci ascoltiamo i nostri nuovi due interventi. Uno è, cioè, ci fa piacere perché è un new entry in IPN, non soltanto come persona ma anche come podcast, quindi parliamo di Logan e tutto il team di Celebro Podcast, che ci hanno regalato anche loro il loro contributo. E poi c'è Morgan. Ah, posso, vai, Morgan che ci va. No, Morgan, che bello che se l'è fatto tutto da solo, si è montato l'audio con i suoni sotto, che ci racconta di questo Natale del 1983 a Ischia e della demo del Commodore 64 con la natalizia. Sai? È un bel ricordo. No, questo ci vuole proprio. Ci vuole, sta. Ascoltiamo Morgan. Allora, il mio ricordo legato a Natale non è proprio legato a Natale, anche se c'era comunque tanta tanta neve. Era il 3 marzo del 2005, giorno di lancio di Metal Gear Solid Snake Eater, anzi no, era il giorno prima perché avevano rotto il day one. Io l'avevo prenotato in un allora EB Games, in un negozio sui 30 km da casa mia. Io ricordo che andavo ancora al liceo ai tempi, ero all'ultimo anno, avevo organizzato tutto: partire al mattino, andare a prendere il gioco, quindi non andare a scuola, e giocare tutto il giorno a Metal Gear. E succede questo, che io mi alzo alle 6:30 del mattino, guardo fuori dalla finestra e c'era una neve allucinante. Enrico magari se lo ricorda anche. No, ma io me lo ricordo bene quel periodo lì, perché tra l'altro io andavo a lavorare, quindi quel giorno lì ho spalato più neve che altro. Esatto. E mi ricordo che te mi mandavi le foto, gli MMS sul coso, sul telefono, di te e quell'altro ragazzo che adesso mi sfugge il nome, in macchina. Mi ricordo guarda benissimo una foto ad Arquata Scrivia. Mi ricordo benissimo che mi ha mandato una foto che eravate ad Arquata Scrivia e c'era belli 20 cm di neve sul cofano della macchina. Sì, una cosa assurda. Io avevo un Panda 30. Sono partito, sono andato appunto a prendere questo amico qua, che ha avuto la cortesia di rischiare la vita insieme a me. Un altro più grande di noi, quindi. Sì, anche di abbastanza, però ai tempi lui, cavolo, qualsiasi cosa, lui lo trascinava, arrivava. Sì, sì, vabbè, era un po' il papà di tutti all'epoca. Quando noi eravamo pischellini, lui era parecchio più grande, esatto, di noi. E praticamente quando, vabbè, innanzitutto avevo mia madre che mi urlava di tutto dietro: scemo, cosa esci per un gioco deficiente, vai a rischiare. Non ho fatto in tempo a farla finire di parlare, che io ero già fuori dalla porta in macchina che stavo andando. Insomma, alla fine siamo riusciti ad arrivare lì circa dopo 4 ore, quindi fate i conti voi, 30 km in 4 ore all'andata, perché poi c'è stato altrettanto tempo per il ritorno. E quindi in sostanza sono riuscito a giocare a Metal Gear 3, appunto Snake Eater, più o meno verso le 2:30-3 del pomeriggio, dalle 6 del mattino che ero partito. Però cosa non si fa per i videogiochi? A volte pazzie. Vero? Come quella che ho fatto anch'io nel mio ricordo natalizio, ma non vi dico l'anno, che sono andato da anche lì era, non mi ricordo se si chiamava ancora AB Games o GameStop, comunque più o meno siamo lì a fare un po' di regali, diciamo. Infastidito sia dalla cifra che avevo speso, perché avevo il mio budget da pezzente all'epoca, si infastidito dall'orda di mamme, zie, nonne che cercavano i giochi più improbabili, poi sono stronzissimi nipoti, anche perché poi a Natale figura, ti ricordai la voce tediante di un mio amico che ti dava di Zucca, e ne hai preso Mass Effect, prendi Mass Effect, che bello Mass Effect. Allora a un certo punto ho schiumato di brutta maniera e ho investito 3/4 del budget che avevo per i regali da fare nel comprare di Mass Effect, eppure le cuffiette wireless dell'Xbox 360, che non è che all'epoca costassero poco, però sono stati uno dei più belli acquisti che ho mai fatto, perché le ho usate fino a, diciamo, 7-8 mesi fa, erano talmente distrutte che non avevano neanche più il gommino interno. Hai detto gommino? È stato bello. E Mass Effect è stato uno dei giochi più belli che mi ha introdotto alla saga fantascientifica videoludica più bella, credo, degli ultimi 10 anni. E diciamo, sono tornato a casa lì per lì col fegato che sputava bile, ma no, alla fine è andata bene, dai, non lo schifo di quel pomeriggio. Amici, credo che tocchi a me adesso. Io direi di sì. Io, ragazzi, io purtroppo ho un brutto ricordo legato a un Natale particolare, che è stato quando ho comprato la mia Xbox 360. Ora non mi ricordo esattamente quando è stato, l'anno preciso. Ne tiro uno a caso, mi sembra il 2008. Mi sembra proprio di sì. E mi ricordo che l'avevo presa insieme a mio fratello, l'Xbox 360. Era periodo di dicembre, prima di Natale, lo ricordo come un incubo, perché ero andato a comprarlo ovviamente sempre tramite mio fratello, che mi diceva devi prendere Call of Duty, devi prendere Call of Duty, era Modern Warfare 2 addirittura, mi sembra, non vorrei dire una cavolata. Vabbè, il fatto sta che compro sto gioco, io bello tranquillo parto, vado a Genova e al ritorno purtroppo con la macchina prendo un lastrone di ghiaccio e mi vado a piantare contro un muro in una curva. E quindi e poi tra l'altro è finita anche lì la vita di quella mia macchina. Pazienza. Sì, vabbè. Diciamo che è andata bene perché è finita solo la vita della macchina. E sì, purtroppo è continuato il suo acquisto di Call of Duty. Quello sì, no, ma tra l'altro Call of Duty sta segnando. Cioè, veramente. Negativo la tua vita, dai. Negativo la mia vita. E io continuo a ostinarmi a comprarlo. E questo... Perché ricordiamo che anche questo Natale Call of Duty ti sta dando dei problemi su PS4. Te lo sputa addosso, vedi scorrendo. Come stelline ninja, vedi, con ogni volta che mi lo metto dire fuori in una maniera oscena. Comunque, ragazzi, questi sono i nostri ricordi di Natale e di Cerbero. Che cogliamo l'occasione velocissimamente per farvi gli auguri. Da tanti parte di auguri. E da parte di Logan. E anche da parte di questo povero Enrico. Ma facciamo una partita Call of Duty. Dicembre 1983. Sapevi che non te lo saresti tolto di dosso facilmente, l'odore della polvere da sparo delle gare di mortaletti al parco e dei razzetti orbitanti nelle bottiglie del latte. I pescatori iniziavano a smontare le baracche nel mercato in piazza e gli zampognari incassavano gli ultimi ratei di quell'atmosfera che, per quell'anno, stava per lasciare il suo tempo. Si erano fatte le 12 ed era ora di salutare gli amici e di correre a casa. Quel giorno non si pranzava, ma si faceva merenda con le pizze di scarola al forno e i panini fritti impastati dalle manone della nonna. Già dall'uscio, che fino a sera sarebbe stato sempre aperto, l'odore dei mustaccioli appena fatti, struffoli e pane napoletano si azzuffava con quello aspro delle salsicce e friarielli. La casa si animava già di parenti in anticipo sul cenone che si offrivano di dare una mano che, già sapevi, non avrebbero mai dato. Non avevi bisogno del calendario per ricordarti che quella era la vigilia di Natale. Il gelo, perché da bambini l'inverno sa essere davvero inverno, era già dimenticato sulla poltrona della nonna con la coperta pesante, le babbucce di lana ed il braciere acceso. Dovevano trascorrere ancora 7 ore prima del cenone e faceva troppo freddo per andare in sala giochi. Magari avessi avuto uno di quei computer che fanno giocare col televisore, come leggevi su videogiochi della Jackson. E allora accendevi la TV, quella grande in salotto, senza il telecomando. Sul secondo canale la solita replica natalizia del viaggio al centro della Terra. Sul primo un programma dell'accesso. Meglio di no. E allora giri su CRT34, un canale privato regionale, e ti si sgranano gli occhi. In uno studio televisivo addobbato alla bella e meglio con un enorme tabellone che sponsorizza un negozio di elettrodomestici di Napoli, vedi in primo piano uno stupendo e vibrante Commodore VIC-20. Allora dici a tutti di fare silenzio mentre cerchi di intuire cosa stiano trasmettendo e capisci che quel programma della vigilia è un gioco a premi con chiamate da casa. Basta chiamare un numero in sovraimpressione e dare il via a voce ad un bambino in studio che premerà F7. Farà girare le ruote di una slot machine nel VIC-20 e a quel punto la regia passerà all'immagine del televisore collegato al VIC e in una miriade di suoni digitali le ruote girano a segnare il destino di chi avrebbe inanellato un tris di 7. Ma qual era il premio? Su un mobiletto in un angolo dello studio ed ammantato di stelle filanti argentate c'era un computer Mattel Aquarius nuovo fiammante che prometteva sarò tuo, svettando un sorriso di tasti blu elettrico. Provi 10, 100, 1000 volte a comporre quel numero. Doveva essere tuo quel meraviglioso computer che il dialettale presentatore vantava come l'ideale per i vostri figli, un ottimo compagno di studi e il più potente, il computer con 1000 espansioni. Purtroppo un demente di 8 anni di Casavatore riuscì a prendere la linea prima di te ed a segnarsela. Che delusione. Allora giri canale sull'onda della rabbia e su Italia 1 c'è la pubblicità dello Spectrum 1648K con uno sciatore in caratteri ridefiniti in campo bianco. Quanto ti piacerebbe. Ma bussano alla porta ed entra tuo cugino con uno schiacciapensieri della Mattel in anticipo sui regali di Babbo Natale. E sai già che presto, tra una portata e l'altra, quell'oggetto di alta tecnologia finirà tra le tue mani. Certo che sì. Il sonno che segue la cena luculliana è vinto dai richiami dei genitori che ti imbacuccano per andare alla messa di mezzanotte. Non esiste freddo più freddo di quello della notte di Natale e i canti e gli auguri scemano col tremare dei denti appena rientrati in casa dopo la messa. Accendi la TV così per fare, mentre indossi il pigiama. Sono le 2 di notte ed è la notte di Natale del 1983 e in un caleidoscopico cinescopio, qualunque canale tu possa scegliere, ti accorgi che tutte le televisioni private, come figli di una genialità clonata, mandano in loop continuo il demo natalizio della Commodore che gira su Commodore 64. Felice Natale 1983 a tutti gli ascoltatori di questo podcast da Morgan. Eccoci. Scusa, mi stai rubando il mestiere. Nel frattempo dobbiamo sentire 5 minuti di musica di disco, bellissimo. Marco, allora invece tu allora, metti la musica. Era un dicembre, era freddo. Questa cosa però basta, perché a casa mia non c'erano i riscaldamenti perché eravamo poveri. Però avevo cominciato a lavorare, per cui io ero deciso di comprarmi questa PlayStation. Ma lavorare quando? Scusa. Tempo fa, adesso non andiamo a ricalcare. Aspetta, che cambiamo life motive, può essere. Sì. No, anche devo cambiare life motive pure io. Che devo essere anche perché ricordiamo questa puntata va in onda a Natale, no? A Natale. Ma dopo Natale che cosa c'è? Cioè, stiamo dando. E dopo? Stiamo dando. Ho tsunami! Tsunami! Bomba d'acqua! Ma torniamo al ricordo videoludico. Ricordo videoludico? Ma questa cosa? È ancora presto. Insomma, decisi di comprare questa PlayStation. Che appunto era la noi della PlayStation, cioè noi vogliamo sapere i tuoi regali che hai ricevuto. Io non ho mai ricevuto regali. Ma che non hai mai ricevuto? Non sai che mai ricevuto i regali, il coso. Guarda, io facendo trasmissione con lui ho capito che non c'ha amici, non c'ha amici. Non ha mai ricevuto regali. No, mai. E sai, ma anche oggi mi ha spiegato anche perché non gli hanno mai regalato il Simon, cioè mentre il Simon, quello là, il gioco, sì, quello che tu ti dovevi ricordare, quello con i quattro colori. Esatto, bravo. Aspetta, non hanno, perché non hanno, perché non c'era la versione, aspetta sì, perché non ti hanno regalato perché non ti hanno regalato il Simon? Perché purtroppo non sapevo giocarci. Oh, mannaggia. Quindi quando faceva pip, io facevo pe pip pip pe pip pip pip pe. E quindi io non ho memoria, non riesco a ricordare. Una cosa disse, vabbè, allora racconta il tuo. E sì, quindi decisi di comprare la PlayStation 2. Non riesco a ripetere. No, non ci riesco. E questo è il sale. Poi questo gli sta menando, sì, sì. Diciamo la verità. Al cazzotto. Vabbè, comunque, in ogni caso. Ho deciso di comprare questa PlayStation, vado al negoziante, però purtroppo le PlayStation sono finite. Questi erano brutti momenti. Brutta cosa. Bambino, qui non c'è niente, non è più tanto bambino, insomma. Comunque, in ogni caso, c'era dall'altra parte, c'era un Nintendo 64, di lì, di Nintendo 64, quanti ne volevi? Quelli proprio, quelli, poi chiaramente però, ho comprato quello, io l'ho comprato perché tra l'altro stavo perché facendo, cosa dovevi comprare? Comprarmelo tra l'altro, ma poi c'era il gioco del Star Wars Night of the, no, Shadows of the Empire, c'era, stavano facendo vedere la demo e caro, l'ho comprato con quello in bundle, me lo sono comprato. E ti è piaciuto il gioco? Sì, sì, il gioco fighissimo, bellissimo, basta però. Per me Nintendo è finito, basta. È finito quel gioco lì, insomma. C'è la musica triste. Non riesco a giocare. Non so, quello riesco a vedere cos'è. Come funziona. No, io direi che a questo punto, cioè, sappiamo cosa regalarti al prossimo Natale. Esatto, Simon. Questo è chiaro. Invece, per quanto riguarda il mio racconto, picchiare sul Simon. C'è anche il mio racconto, se vuoi te lo racconto. No, certo. No. Il mio racconto, a parte quello del Big 20, insomma, oramai è diventato praticamente storia. E mi ricordo praticamente dell'Atari, cioè nel senso, mi ricordo questa cosa dell'Atari 2006 che tutti un po' pensavamo, sognavamo, però nessuno aveva il coraggio di chiedere a papà magari una cosa del genere. E però insomma, capito, ogni tanto se capitava, c'era un negozio vicino a casa mia, si chiamava Melchioni, no, era una catena, poi erano quelli che importavano parecchi di sti computer, il Commodore 64, roba del genere, e c'era praticamente c'era sta vetrina con tutti sti monitor, con tutte ste demo, no, quindi sti cose colorati, le stanghette, le cose, roba del genere. E quando passavamo là, mio padre vedeva, io che mi fissavo a guardare sti monitor con le stecchette, guarda, vedevi il badger, il schermo, e diceva, ma cosa sta guardando questo stupido di un bambino? E però capiva insomma che eravamo veramente molto molto affezionati a questa cosa. Che stai facendo? Ah, ho capito. Siamo, perché lo dobbiamo chiedere al cervellone. Questo ormai è un crossover totale, questa trasmissione. E sentiamo cosa dice il cervellone. Il supercomputer che produce la trasmissione sta piangendo per il racconto di Pizzi. Pizzi, sì, piccolo stupido bambino, mi hai fatto commuovere. No, perché io poi mi fissavo proprio a guardare questa cosa, ero veramente piccolo, cioè nel senso, quanto ce l'avevo, 7 anni, 8 anni, non mi ricordo. E insomma, vabbè, cioè, mio padre aveva questa immagine di me con lo sguardo perso, e un giorno mia madre mi raccontò che lui, mio padre, non è uno stile, dice, però lo commosse questa cosa, questo sguardo proprio, in realtà era un ictus. Era già allora, no? E insomma, vabbè, e mi regalò questo Atari 2006 a me e mio fratello, che però, come la stragrande maggioranza delle cose elettroniche e informatiche dentro casa mia, funzionava fino a un certo punto. Nel senso che l'Atari, tutte le cose ci hanno avuto un difetto tecnico. Per esempio, il Commodore 64, il chip audio si disattivava. Allora tu aprivi la tastiera, toccavi il chip, c'era una membranina, roba del genere, e quello ricominciava a suonare. Invece l'Atari 2006 che faceva? Uno dei due player, quindi o player 1 o player 2, dopo un po', non so per quale ragione, si dimezzava lo sprite, cioè diventava più piccolo. Quindi se giocavi a Pong o giocavi a Space Invaders era comodo, se giocavi a Pong diventava un problema, insomma. O piccolo bambino impaurito, vieni dal tuo computer che ti coccola e ti farà godere tanto tanto che dimenticherai i tuoi tristi trascorsi. Altro che Atari, io sono molto meglio. Ad altro che Atari, sì, esatto. E adesso arriviamo all'Atari. E niente, poi arrivò, quindi l'Atari, me lo comprò e roba del genere. E invece c'è l'anno in cui arrivò il Commodore 64, che è sempre di Natale, sempre scartato quando andavamo a San Savino, sempre emozione, cioè avevo già le cassette io del Commodore 64, perché avevo già capito insomma che... Vabbè, quelli ne dicono 500 giochi in uno. C'è, esatto, roba del genere, quindi poi l'attaccammo, ci giocammo una notte intera io e mio fratello, soprattutto al Decathlon, che era proprio il primo gioco in assoluto che... Chi è che ha ricevuto? Non lo so. Che c'è, forse il microonde di qualcuno. Forse il mio. E niente, praticamente mi ricordo che tornando sull'autostrada del sole, che c'era... Come sempre finisce che piove. No, nevicava una cifra, c'era tutto. Utilizzaste il Commodore 64 per sparare la neve. No, a un certo punto la macchina di papà entrò in testa coda e andò a sbattere verso la carreggiata della parte della montagna e fummo presi da dietro da un'altra macchina, un brutto incidente l'abbiamo avuto. E io quando mi sono un attimo levato dallo scordimento, allora ho detto, il Commodore 64, perché non era quella la preoccupazione, se l'altro erano morti tutti, non faceva niente, non scherzo. Però mi ricordo sta cosa che evidentemente non avevo capito insomma l'entità della questione, oppure pensavo che non fosse niente di grave, e quindi mi ero preoccupato del Commodore 64. Del si è salvato. Sì. Sentiamo che dicono i Pooh di questa tua avventura. Vediamo, eh? Esatto. Che piove. No, tu sai, io sono un coverero dei Pooh. Esatto, quindi hai insultato nei podcast per me. Verità, scusa, non è che ti ho insultato. Non più ormai. Non più. Vabbè, però insomma. Vabbè, questo insomma. Sono più della strada. Adesso sei io leggo della strada. Sì. E niente, questo è un po' il ricordo di Natale. In realtà ce ne avrei anche tantissimi altri, ma insomma, chi se ne frega. C'è un tempo di fare altro giro. Ce li conserviamo per i prossimi Natale. Allora, facciamoci l'ultimo giro e poi lanciamo anche le. Il prossimo anno te racconterò quando Peppe mi era ricaricato la stima. No, una cosa, però, una domanda che non ho mai fatto a nessuno. E visto che queste le puntate di Natale sono puntate a ruota libera, non c'hanno un tema preciso, roba del genere. A partire da Giuseppe, poi Marco e poi. Luca, qual è il gioco? Ma io parlo stiamo parlando di giochi vecchi, cioè non parliamo dei giochi di 10 anni fa, quindi proprio il gioco di quando eravate bambini che proprio in assoluto vi piaceva di più e che ci avete perso proprio le ore, o che magari quando, che ne so, l'avete perso, si è rotto o si è smagnetizzata la cassetta, avete sofferto. È un po' Barbara D'Urso sta cosa, vero, eh? Quando si è smagherizzata la cassetta hai sofferto. Sei pronto per la bomba d'acqua? Sì, era un gioco per Amiga, non so se ve lo ricordate, Great Jana Sister. Beh, ci stanno, e con The Super Mario. Eh sì, c'è stato pure un remake recentemente. Posso interrompere perché sì. Voglio sentire la frase "c'hai ragione". La Commodore ha creato il VIC-20, dopodiché ha introdotto il Commodore 64. L'enorme successo del Commodore 64 ha fatto sì che nel 1984, quindi ben 2 anni dopo, su Wikipedia, che è la Bibbia, ho capito, ha introdotto la serie 264, composta da 16, 116 e Plus 4. Quindi vaffanculo, come dico io. Ma questa me la ricordo bene proprio sta cosa, perché mi ricordo che non sì, mi ma tecnologicamente il Commodore, anche se cronologicamente è uscito dopo, era comunque un computer tecnologicamente transitorio tra il 64 e il VIC-20. Ma non è possibile, il VIC-20 è stato già usciti. No, te lo dico anche di più, perché il 16 non, come il VIC-20 non aveva gli sprite. Aveva molti più colori del Commodore 64. Avranno fatto in economia, ma sempre dopo è uscito. È come la PS Vita mia, che non so perché fa più schifo da quella del Saturn. È più bella perché è più vecchia, capito? Abbiamo scoperto oggi. C'ha lo schermo OLED del mio. Il suo c'ha lo schermo OLED, il mio c'ha lo schermo. Quindi ricordiamoci che. Prego, no, dicevo. Dicevi il gioco già esiste. Esatto, ci ho giocato niente così tanto perché era quello che passava il convento, in quanto i Nintendo in casa mia sono entrati molto dopo, quindi Super Mario. In casa mia non ci sono poco mai entrati. Esatto. Però se vi ricordate, molti giochi per Amiga in realtà non avevano tipo che venivano lanciati dal workbench, no, avevano i settori iniziali che facevano subito con loader che facevano partire il gioco. Bene, se tu eri così inavvertitamente, come facevo io in maniera molto sconsiderata, lasciavi sempre la linguetta di sotto per scrivere sul floppy abbassata, sì, sì. E magari ti beccavi nel frattempo qualche altro virus. Il virus andava a colpire i primi due settori del disco e il gioco non ti partiva più. Esatto. Io ricordi che piansi ininterrottamente tantissimi, tantissimi giorni che mio padre non ne poteva più. E t'ammenato. Si era pentito di quel bel gesto che aveva fatto tanti Natali fa. Ma scusa, Luca, tu che sei informatico, dimmi. L'Amiga 500 è stato il primo computer che ha avuto un'abbondante diffusione dei virus. Cioè, beh, io ricordo che i virus sull'Amiga 500 c'erano una marea, però prima dell'Amiga 500 non ne avevo mai sentito parlare. Era il supporto. Sì. Era il supporto, l'Amiga è il primo computer con floppy. Quindi sono nati lì i virus praticamente. No, c'erano di prima i virus, però sul supporto per farlo essere il floppy. Che c'era sta cosa che c'erano alcuni dischetti dell'Amiga 500 che c'avevano il boot. Sì. Che era sui primi due tracce, quello che dicevi, esatto, sui primi due settori. E se andava a andare già quello, invece i dischetti che non c'avevano il boot in quella maniera lì, ma che andavano Che prima vedevi la schermata del Warman. Esatto. Cioè, allora, quelli là invece in teoria se potevano salvare, perché comunque c'erano gli antivirus che pulivano quel settore. Ma se comunque il gioco partiva con il boot nei due settori, comunque anche se levavi il virus. Oltretutto, ti ricordi che a volte molte software house avanti con gli anni, sempre nel periodo Amiga, giocavano su questo e mettevano i sistemi di protezione nei primi due settori, in modo che cose che erano falsamente danneggiate nella copia originale, in modo che l'Xcopy o altri programmi di copiatura non li vedevano come brutti, e quindi la copia non andava a buon fine. Sì, che poi ricordiamoci che Amiga 500 io ci avrò avuto 1500-2000 dischetti, quindi cioè, voglio allevare virus. No, ma poi giusto per quel gioco, e questa era la mia tragedia, è che poi tutti gli altri amichetti con cui me l'ero scambiato, l'avevo ricevuto, non ce l'avevano più in quel proprio momento in cui andava a mancare. Esatto. Marco, invece tu il gioco in assoluto che nella vita, il retro gioco che nella vita del proprio... Ma in realtà ce ne sono stati tanti. Questo è un po' Gizzi. Simon. Me lo richiamo. C'erano tanti giochi, c'era il gioco... Poi tu dici a me che so io che mi faccio i cazzi mia. No, perché stavo perché devo parlarmi di questa cosa. C'era il Gauntlet, c'era Joust, c'era Ball Blazer della Lucasfilm. No, questo è un gioco prima soggettiva, ne parleremo un giorno. Poi c'era Arkanoid, ma neanche tanto, c'erano tanti giochi, perché non sono solo Flight, anche T, mi sono divertito anche con il gioco del T. Io ci giocavo, ma non lo capivo, cioè non capivo che bisognava fare, cioè solo che spingeva il pulsante e niente, lui allungava il collo. No, dovevi raccogliere i pezzi del telefono per chiamare il carro. Sì, color rosso, non quello blu, perché sennò sbagliato. E scappare dagli agenti dell'FBI. Un pezzo alla volta e tornare in casa. Che era un bel gioco di merda, in effetti. Sì. Cioè, nel senso, la sua reputazione è giusta, anche se devo dire che nella storia ho visto anche de peggio. Cioè, nel senso... Come sono cartato molto con Spindizzi, per dire. Spindizzi qual era? È tipo Marble Madness. È tipo Marble Madness. Ah no, ok. Però Marble Madness, giocarlo con l'amica col mouse e tu fai. Non erano i vizi quelli che mi pare parlaste in qualche altro episodio, che era quelli del protagonista l'uovo che saltava. Ah sì, quando abbiamo parlato dello Spectrum. Esatto. Infatti, secondo me ricontrolla, perché secondo me sbagli col nome del gioco. Però invece Luca... l'indizio è originale, quindi non è possibile che mi sbagli. Allora, io devo dire che io vivo ancora nel retro game, quindi bravo. Cioè, nel senso, perché c'ho il Wii U e lo uso per giocare con la Virtual Console. C'ho un DS XL comprato in Giappone che non funziona in Italia, lo uso con R4 per i videogiochi vecchi. Quindi, diciamo, quando ero piccolo, il mio gioco preferito in assoluto era l'Olimpiadi, Track and Field. Track and Field, mamma, è quello in sala, classico, in sala giochi. No, all'epoca nostra era Morir Joy. Ah, il Joy, ma lo stigma di tipo Gesù Cristo, praticamente. Qua sotto, no? E tornavi a casa e poi dice: che cazzo fai? Ho giocato a Track and Field, coglione. Pare che mi hanno fatto santo. No, è vero, perché c'è una cosa. Mamma, pare che sono santo. Il Commodore 64 che c'aveva i primi giochi. No, perché a casa tu non ci potevi giocare perché sfasciavi il joypad. Quindi andavi a giocare in sala giochi. Joystick, dove c'era? Stavano i micro switch. Dove c'era lo switch? Sto joystick che era fatto appuntito, sì. No? Quindi tu mettevi lì e facevi da un po' che facevamo male. Invece io c'avevo il padre di un amico mio che li costruiva i joystick proprio fatti da battaglia, con i micro switch fatti. Che potevi fare praticamente veramente un movimento rapidissimo e riuscivi a correre, oppure c'era la famosa tecnica che tu prendevi il joystick che c'aveva le ventose, lo prendevi dalla base e cominciavi a scuoterlo così, e quello si muoveva da solo. C'è da dire poi che Track and Field, no, in sala giochi era composto da praticamente da 5 quadri, 5 o 6 quadri, c'era il 100 metri, era Decathlon, Pentathlon, c'era il 100 metri, il 110 ostacoli, il giavellotto, il martello, e 500 metri. E c'era la leggenda metropolitana, ma poi c'erano i 3000 siepi, quella proprio finale che non esiste, quello è il problema. Come no, esiste? No, non 1500. Esiste. No, non esiste. No, non nella versione da bar non c'è. Esatto. E c'era sempre quello che stava là e faceva: guarda che se gliela fai sblocchia la maratona. Sì, io ho fatto le solite chiacchiere da bar delle metropolitane. Io ho fatto, io andavo la cazzo a fare 50 lire, completavo, diventavo un drago proprio, e non c'era sta cazzo di maratona. Là incontravo il pizzichiere, guarda che c'è sta maratona, perché se volo io ho fatto la maratona, e poi quando ho finito la maratona è uscito però uno e mi ha dato la coppa. Come sono fuori? Cioè, porca miseria. E l'altro invece che ero proprio appassionato, che ho finito che quest'anno, pensa, Ghost and Goblin. Beh, Ghost and Goblin che era proprio una difficoltà disarmante, è il gioco, ma uno ancora più difficile della storia, sì. No, ma era anche quello che dovevi finire due volte, perché quando finiva la prima volta ti pigliava per il culo. Esatto. L'altro due che ero, io finisco, che però ho finito sempre quest'anno, erano Wonder Boy, che mi piaceva Wonder tantissimo. Boy Mossimo, no, il primo, il primo, e Popeye. Molto bene, perché ti piace Popeye, no? Popeye era solo, stavi su sta nave. No, che stavi su, tipo, era bello. Tipo Donkey Kong. Tipo Donkey Kong, che raccoglievi i cuoricini, era figo perché Bruto si incazzava sempre, tu ti mangiavi spinaci, Bruto sedava, e allora c'era sempre un amico mio che mi faceva: guarda che ci stanno gli spinaci nascosti, che se li che se li vi super potenti animato, che faceva sempre questo personaggio, non se la giochi, sì, tu sempre capita pure a voi, sì. Dammi retta a me, se tu combini app con lo Street Fighter, capito? Tu combini 3-4, le metti in equilibrio, fai. No, ma io lo Street Fighter c'avevo la leggenda, quella che l'hanno usato poi pure come pesce d'aprile alcune riviste, poi diventò, effettivamente si concretizzò solo col tempo, con i capitoli successivi, quello che se comunque Street Fighter 2 finivi in maniera super perfetta anche con lo scontro contro Mr. Bison, poi ti spuntava il maestro di Ryu che dovevi ammazzare, Shenlong, che non era vero. Ah, sai un altro figo che invece chiedevo proprio? Yar Kung Fu, tu ricordi? Sì. Era quello che lo facevi con le due levette, no? No, quella che tu hai. Niente. Sì, no, ricordo che nei video ludici e non sapete giocare con Fitto. Che c'era il primo sconto, tu c'era il ciccione brutto, combattevi subito. Nel secondo c'era quello che ti lanciava le stellette. Questo uno guarda a te che ti rompeva il culo. Allora poi arrivava sempre l'amico mio e faceva: se li sconfici tutti, il massimo del perfect. Che poi c'era sta parola che ha fatto il perfect. Capito? Perfect è venuto dopo, però. No, no, però io mi ricordo, ha fatto il perfect. Poi esce fuori il te stesso nero. E poi in realtà se mi faceva ridere sempre da sala giochi, io avevo un motivo da sala giochi, quando giocavi a calcio con qualcuno, ma questo tutt'oggi succede quando gioca a PES, no? Che tu, lui si professa il campione, no? No, perché io adesso e perde. Ah, devo cominciare a fare. No, perché io sto a giocare per le finezze. Che cazzo vuol dire stare a giocare per le finezze? Sì, sì, no, perché io gioco per fare le finezze, quindi non punto alla vittoria. Per quello che non mi cazzo. No, ma io più che altro mi chiedevo: ma quando c'avevi sempre l'amico che al bar ti diceva queste cose, ma perché non gli dicevi? Perché non mi fai vedere? Ti offro la partita. Se no, no, perché lui ti diceva: no, io non posso fartelo vedere. Capito? Perché mi sai a rubare mestiere. Perché. No, perché io comunque alla fine c'è te stesso nero, c'è uno scontro con te stesso. Però sblocchi la maratona. E non vinci, sblocchi la maratona. E non vinci. Te danno la coppa, quella del nonno. Oh, ridere, guarda che c'erano sti personaggi. Sì, sì, c'erano, sì, sì, sì. In Giappone vi assicuro ci sono ancora, rivedi i giapponesi dietro. Mi posso ridere. La maratona. Ma sto detto, maratona. Tu metti a giocare col DS? Ah, io la PlayStation Vita, arriva un uomo, sai che se gli fai perfetto, poi alla fine arriva uno uguale a te nero, e lì è il problema, eh? E lì è il problema, perché quello è il nero, c'è il Big Bamboo in macello. Comunque io c'avevo un gioco che giocavo sempre tantissimo, come il 64 International Soccer, quello, sì, di Andrew Spencer e vabbè, ma c'era un gioco che mi inquietava da morire, che si chiama Forbidden Forest. No, sai che non ho sentito? Non è Black Forbidden Forest? Ah, che era mezzo horror, era mezzo fantasy, mezzo horror, perché c'erano sti ragnoni che se si prendevano dei magnati. Quello che è tipo una specie di arciere in mezzo alla foresta. Che era bruttissimo il gioco, Ce l'ho con Fappizzi intanto. Ah, beh, sì, ma io se lo ricordo. Vabbè, allora. Ah, sì, mo ricordo. Allora dico, io avevo paura. Quando, ma tu ti considerai che io la maggior parte dei giochi sono manco così intitolavano, eh? Cioè, perché lui comprava quello Snillo e gli amici del karate oppure butta l'immondizia che era trash can. Allora io avevo paura del Paper gioco, Boy, del gioco dei Ghostbusters. Ah, sì, quando partiva con la sigla cantata, cioè Ghostbuster, c'era la sigla, io avevo paura. Ah, ecco, un altro gioco che era. A me faceva paura quando appariva il mostrone. Impossible Mission, quello era veramente figo. Lo vabbè, e Impossible Mission è quello che parlava e faceva. Stay wild, stay forever. Stay foolish. Allora, ci sentiamo il penultimo intervento, che poi in realtà noi andiamo a chiudere praticamente, perché poi l'ultimo intervento è la chiusura della trasmissione. Ci sentiamo ho fatto un po' di casino, ci sentiamo Biggio, semplicemente ci sentiamo Stefano Biggio e poi non abbiamo già sentito Stefano Biggio, no okay. Perché poi potevi aver fatto confusione. Prego. Stefano Biggio. Sfumature di Biggio. Amici del Prebito, questo 50 sfumature natalizio per augurarvi un buon Natale e un felice anno nuovo. Vi farei percorrere la mia infanzia, quando credevo ancora a Babbo Natale, quindi ovviamente un paio d'anni fa. E mio nonno simulava l'arrivo di Babbo Natale facendo casino, letteralmente. Cioè, io venivo trasportato, portato in un'altra stanza con una scusa, e si spegnevano le luci, mio nonno faceva rumore, probabilmente con i pacchi regalo, adesso non ricordo. E magicamente apparivano i regali, era abilissimo nel farlo, non ricordo ancora come delle capacità incredibili, o forse ero io che ero ancora un bambino imberbe e ancora pieno di meraviglia e così via, e fantasia. Tutto sta che questo mi ricorda un gioco, mi ricorda un gioco che mi fu regalato per Natale, un gioco per Nintendo, che era Solomon's Key. Solomon's Key scoprì anni dopo essere uno dei giochi più difficili per Super Nintendo, a livello di Maniac Mansion, diciamo. Era un puzzle game che aveva qualche ricordava in qualche maniera Lode Runner, nel senso che bisognava distruggere i blocchi tramite la bacchetta di Salomone, di questo mago, ed era possibile attraverso questo raggiungere altre piattaforme, altri punti, uscire da livello, e i livelli, i nemici e tutto erano organizzati in maniera complicatissima. Inutile dire che non andai mai oltre forse i primi 10 stage, non ricordo neanche bene. È un gioco a cui ho cercato di giocare molto, ma non sono mai riuscito a trarne grande beneficio, perché era davvero troppo complicato. Io avevo, insomma, ero elementari, quindi si parla di 7-8 anni, forse qualcosina di più. Insomma, una cosa davvero impossibile. Se vi capita anche questo, dateci un'occhiata per la sua difficoltà. Ovviamente esistono persone che fanno speedrun e così via, il gioco è completabile. Rimane il fatto che è difficilissimo. Detto questo, con un ricordo nostalgico sia di mio nonno che, insomma, che saluto, anche se dubito che mi possa sentire, e ringrazio i programmatori di Solomon's Key per avermi fatto uscire di testa da piccolo, questo forse spiega tante cose, e ancora un abbraccio e buon anno, ciao. Eccoci, siamo tornati. Allora, ragazzi, prima di andare praticamente alla conclusione, dove c'è quello che voi sapete, che le puntate nuove di Archeologia Videoludica praticamente partono sempre con l'intro di Luigi Marrone. Nello specifico, proprio in clima natalizio, insomma, quella che doveva essere l'intro di Luigi Marrone è venuta bene, talmente bene che mi è piaciuta come ispirazione. Allora, in realtà ci chiudiamo. Metti la musica. Cioè. No, posso dire una cosa? Nel frattempo ho trovato le cassette del Commodore 64. Vi dico alcuni nomi. Ah, sì, bello. Ah, c'era Bombarolo. Bomba d'acqua. Incastro. Operazione Polipetto. Domino. Le prigioni di Davide. Magazziniere. Forse sarebbe Bob, Fido e i pretendenti. Che su chi per me? Bob, Fido e i pretendenti. Poteva essere Indiana Jones, La guardia, Korg l'impossibile, Balzerella, Invasione, La Guercia. Deve essere fantastico. No, erano bellissime anche le Rimbaltrom. Erano bellissime anche le trame. Vai anche tu nelle caverne a uccidere la perfida Guercia. Te lo ricordi le trame? No? Sì. Il nostro amico Bombarolo. Poi c'è pure Filippo, il campionato di rugby, Rimbalza l'Eden. Sempre rimbalzello, qualcosa che rimbalza c'è, a me ma rimbalza. Suolmatic, elicottero distruttore, vampiro maligno, quello benigno, guardie armate, cosa lì? Brigate rosse, brigate rosse, incredibile, erano tantissimi proprio, è una cosa fantastica. Vabbè, potrei continuare a leggere tutta la notte. In realtà sì, c'erano migliaia di giochi, soprattutto il Commodore 64 e per Spectrum, e voi immaginate che per ognuno di questi in realtà c'era una controparte italiana, almeno una. Con dei titoli c'era una controparte, proprio parte, anche nel senso anche che parte, perché non era mai detto gioco, tutti i giochi, esatto. Va bene, allora Giuseppe, il saluto di Natale per questa nostra quinta stagione di archeologia videoludica, insomma, che poi tu pensi, mi spiego come cavolo fai a fare 5 stagioni in 3 anni? No, non so 3 anni, ma non so manco 5, sono 4 anni, come fanno queste 5? Poi ti spiego. Io non so se solo che mi trovo a fare molti mesi, dai 4 anni sto alla 7ª stagione, quando ha preso a mano lui ho fatto una cosa. Tu considera che noi abbiamo iniziato a febbraio, se abbiamo iniziato a febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno era una stagione, quindi era perché tu le conti come quelle della TV. Esatto, sono troppo over. Vabbè, quindi dicevamo, Giuseppe, niente, io vi rifaccio nuovamente gli auguri, anche riproponendoci sa di fare anche più puntate, perché oggi vi dico la stiamo il un mio, po' esatto, soprattutto il mio proposito per il nuovo anno è quello di essere più costante con il rilascio degli episodi, soprattutto di archeologia videoludica. Speriamo. E che insomma, magari comunque i lettori che di recente, i nostri ascoltatori che di recente non si sono neanche fatti tanto sentire, perché la bomba d'acqua, no. Surf notturno, ubriachi, e magari insomma ci proponessero anche loro qualche speciale, qualche tema che vorrebbero trattare nelle prossime puntate. Abbiamo delle idee, comunque torniamo a gennaio con Alone in the Dark, il primo Alone in the Dark, quindi insomma sarà una bella puntata, ci sarà sicuramente bello Alone in the Dark. Il primo Alone in the Dark, il primo che ti avevo tanta paura, è una particolare, quando c'era l'uccello che ti usciva dalla finestra, poi c'era musiche fantastiche, quello se il primo, se mi ricordo. No, ma era tutto. Penso l'ho giocato quasi tutto. Quasi. Sì, anch'io, perché mi faceva paura. Non l'ho mai finito. Io riuscii a finirlo solamente con la soluzione di TGM. Quello per il PC, però parliamo. Sì, sì. Perché ce n'è pure uno per PlayStation che è brutto. No, quelli sono remake. Ma quelli sono usciti dopo. Io mi ricordo. A me faceva paura. Che cavolo. No, ma guarda che era particolare. Poi devi considerare che allora i giochi dell'orrore erano, cioè, più o meno. Ma c'erano delle scene che erano proprio inquietanti. La stanza. Come era lì la sala da pranzo, che c'erano tutti i fantasmi, manco mi ricordo bene. Era, insomma, e c'era quest'arco che tirava le frecce da solo, no? Che guarda che. I mostri ha detto subito dopo. E poi era difficilissimo. Sì. Difficilissimo, un gioco veramente infame. Anche perché per andare avanti a volte i mostri li dovevi evitare, o dovevi usare particolari oggetti. No? Non era come oggi che qualsiasi cosa si risolve a suon di piombo, no? E poi quando morivi? Che succedeva? Si vedeva lo zombie che si trascinava la tua carcassa nelle profondità della magione, vestito un po' da coglione, però, vabbè. Quindi diciamo Alone in the Dark, quindi vabbè, grazie Giuseppe. Invece Marco, io però prima di Marco vorrei uno speciale archeologia biblica su Operazione Polpetto. Bisognerebbe capire qual è la controparte reale Sasushi o Vectra all'88, prego, poi ora cerca la controparte di operazione. No, vabbè, io invece faccio tanti auguri, si magari fai, sarà bello. Ah, non l'ho rimesso, no, vabbè, pazienza. Devi essere pronto con gli assets, perché sennò. E quindi niente, ci vediamo fra un po'. Non sappiamo quando. Prossimo anno. Ma questo con operazione polpetto. Ma che è? Lo voglio sapere. Operazione polipetto, delle cose inguardabili. Stavo rigettando l'intera scena. Proprio. Che bello. Vabbè, insomma, comunque, in ogni caso, a parte le operazioni polipette, ci vediamo nel 2015. Se ci sentiamo. Speriamo, però. Sì, speriamo. E basta. Tanti auguri. Buon anno. Arrivederci. Vabbè, Luca, invece, che poi ci tornerai a trovare magari una puntata specifica ben sì, no, io ormai sono chiuso con questi nomi con attacco al Big 21 oppure gemma nascosta, strade pericolose, killer alieni, flipper magico, vicoli pericolosi, castello nero, la miniera di diamanti, capitano Otasaki. Vicoli pericolosi mi ricorda una barzelletta che forse non è questo il problema. Mega karate, pacronicum, pallina, questa investigatore, addestramento, extralieri, campionato, dritto e rovescio, dong il postino, cornuto pazzo, no, cornuto pazzo, ma questo non lo leggo bene, circuito pazzo, circuito pazzo, palla rotolante, bolle e bomba d'acqua a tutti, ciao, grazie di essere stati qua, sono stato contento di essere tornato anche oggi a Video Ludica, esatto. Nel frattempo vi annuncio che la Mediacom ha fatto un tablet Windows 8, quindi perché lo vuole comprare? No, non va bene così. È bellissimo, io do i contatti al mio podcast, poi fa pubblicità. Ah, certo, sei ho detto podcast. Podcast, vedi, ti sei fregato da solo. La mia trasmissione www.multimania.it oppure www.ifiveradio.it per la trasmissione in diretta, dove okay, c'è Capizzi, Guardi e Sasso. Perfetto, allora considerate che durante questi giorni dove c'è questo speciale che state ascoltando, in realtà c'è anche una puntata di Dietrologia Videoludica che è uscita con gli auguri di Natale anche di Ragazzi di Dietrologia, ma che non è una puntata natalizia, c'è 70.080 natalizio, quindi mi raccomando ascoltatelo, 70.080.it che è il nostro podcast che abbiamo ideato con Luca e che ovviamente anche questo c'ha la sua trasmissione natalizia per fare gli auguri a tutti quanti, poi vedo che c'è anche il cervellone elettronico con il quale noi elaboriamo queste trasmissioni, deve dire qualcosa. Certo, deve fare gli auguri di Natale anche lui, no? Giustamente, con la voce sua dente. Aspetta. Però aspetta, vabbè, ancora dimmi quando sei, quando è pronto il cervellone. È pronto, stai elaborando. Un saluto anche dal mega computer che produce le puntate. Buon Natale. Buon Natale. A stronzi. Vabbè, quindi www.archeologiavideoludica.it è il nostro sito, tutto il resto dei riferimenti. Anzi, se vogliamo essere precisi per una citazione precisa, bisogna fargliela così. A stronzi. Punto esclamativo. Già, sai, hai ragione, infatti sì, questa sarebbe più appropriata. Anch'io vi faccio gli auguri di Buon Natale, lo faccio a nome di quelli che hanno partecipato anche indirettamente a questa trasmissione, ma soprattutto anche al resto del team di Italian Podcast Network, di Multimania, di Cerebro e di tutta insomma la grande famiglia che continua a crescere, e cercheremo anche di sistemare le cose che ancora non abbiamo sistemato, soprattutto perché Luca se no poi dopo fa la mozione sindacale e c'ha anche ragione. Detto questo, spero che sia per voi un buon Natale, soprattutto spero che sia un buon anno, cioè una fine, un buon fine anno, e speriamo insomma, e ricordiamoci soprattutto sempre do tsunami. Ci rivediamo il prossimo anno, che è già il bello ciccio con un bel programma editoriale come si deve. Ciao a tutti, ciao, auguri, buon Natale, auguri. Che in effetti, come dicevamo, appunto, vi c'è salutiamo. Il saluto del Coso Marrone. Esatto, vi salutiamo con infatti, io volevo dire Coso Marrone. Vi salutiamo appunto con una cosa che non può essere cosa più appropriata, ovviamente il pensiero di Natale di Luigi Marrone, sempre a sfondo videoludico. Quindi, ancora un'altra volta, buon anno e buon Natale a tutti quanti. Ciao. Ciao. Ciao. Mila, PlayStation 2, Europa, 24 novembre. 2013, PlayStation 4, Europa, 29 novembre. 1987, Nintendo Entertainment System, Italia, 30 novembre. 2004, Nintendo DS, Giappone, 2 dicembre. 1994, PS1, Giappone, 3 dicembre. 2012, Nintendo Wii U, Giappone, 8 dicembre. 2006, Nintendo Wii, Spagna, 9 dicembre. 2005, Xbox 360, Giappone, 10 dicembre. Queste nel tempo sinora alcune delle progressive date più prossime al Natale, dove nell'universo, nelle emozioni e aspettative, è risuonata più forte nello spazio dell'anima la gioia, facendo tremare argento e oro sensazioni magiche, Mario, Nintendo, cioccolato, regali, bambini, sorrisi, joypad, amici, Xbox, PlayStation, multiplayer, videogiochi, Natale. Tanti auguri a tutti, buon anno di videogiochi andati, futuri nella memoria nostalgia, languida di videogioco per sempre. E se potessi vincere un milione di euro? Scarica l'app ScalaPay, registrati al concorso Vinci un sogno da un milione e fai un acquisto di almeno 80 euro. E sempre sulla app puoi generare la carta ScalaPay per pagare in 3 o 4 rate senza interessi. 100% sicura, garantita da Visa. Il montepremi complessivo di 1 milione di euro è sotto forma di voucher in beni o servizi IVA incluso ove dovuta. Il regolamento completo è sul sito di scalapay.com fino al 15 gennaio 2024.